Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e undici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Oggi vi anticipo, il programma terminerà alle 18, perché dalle 18 alle 18.30 Radio 24 dedicherà uno speciale d'obbligo, a mio avviso, da un lato la scomparsa del premio Nobel alla letteratura italiana, mi riferisco chiaramente a Dario Fo, dall'altro anche per quello che riguarda l'annuncio di oggi che è Bob Dylan il nuovo Nobel alla letteratura. E quindi programma terminale 18, di cosa ci occuperemo come cronaca della giornata economico-finanziaria, intanto anche della borsa, perché al di là dell'indice -1,40% che è in linea, se vogliamo dirlo, con Parigi -1,35%, Francoforte -1,30%, Londra perde lo 0,80%, il Dow Jones l'1%. Però dicevo, al di là dell'indice, in realtà sono abbastanza pesanti oggi come cali i titoli bancari legati al mondo delle popolari, soprattutto Banco Popolare -6%, Pop Milano -5,90%, Pop Emilia Romagna -4,80%. C'è molta attesa e anche un po' di preoccupazione sulla fusione Banco Popolare e Popolare di Milano. Ancora Unipol -4,12%, Unipol Sai -4%, Mediolanum -4%, Ubibanca -4%, Unicredit -3,60%. Un po' meglio fa Intesa San Paolo -2,80%. Chi va bene? FinecoBank, ma qui c'è notizia, perché Unicredit ha completato la procedura di cessione a investitori istituzionali del 20% di FinecoBank. È un'operazione che vale circa mezzo miliardo di euro. Hanno venduto 121 milioni di azioni a un prezzo di 4,55 euro per azione. E questo ha portato anche un miglioramento dei cosiddetti ratio patrimoniali del gruppo. Il CET1 è aumentato di circa 12 punti base, ma al di là dei tecnicismi, ceduto il 20%, ha collocato sul mercato il 20% di FinecoBank sul mercato istituzionale, il titolo guadagna 5,70 a 5 euro per azione. Poi invece più distaccata a 2A +1,1 come Ferragamo, Enel +0,70, Luxottica mezzo punto come ST Microelectronics. Segnalo anche l'andamento particolarmente forte di Banca Generali, +6%, vicina ai 18 euro per azione. Che cosa è successo? Sfuma il rischio di un aumento di capitale dopo il collocamento del titolo Fineco. Tra l'altro Fineco stessa è arrivata a guadagnare appunto oltre il 5%. Perché si allontana l'ipotesi di nuovi collocamenti, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Faccio notare che anche Alerion, dopo l'OPA lanciata da Edison, guadagna, ed è il miglior titolo, il 21,8%. E poi commenteremo invece gli altri titoli. Di cosa ci occuperemo oggi? Le borse sono comunque tutte deboli, così vado subito sulla notizia in breve, per alcuni casi italiani, ma in generale per il dato cinese. Allora, la Cina ha avuto un vero e proprio tonfo nell'export, ha segnato una frenata del 10% rispetto a settembre del 2015, molto più ampia delle attese. Ci si attendeva un calo simile all'agosto per quello che riguarda l'export cinese, perché ad agosto ha fatto -2,8%. Anche le importazioni in Cina sono calate dell'1,9% contro una stima dell'aumento dell'1%, che vuol dire una doppia cosa: che da un lato anche i cinesi stanno consumando meno, ma soprattutto che la domanda di merci, di beni cinesi, è in rallentamento a livello mondiale, tant'è che il saldo tra export e import scende a $42 miliardi. Può sembrare molto, ma sono 10 miliardi secchi in meno rispetto solo al mese precedente, solo ad agosto. È chiaro che è la debolezza della domanda globale che pesa sulla Cina, e poi si aggiunge anche un calo delle importazioni, perché i consumi domestici anche in Cina si stanno contraendo. E questo, insomma, ha fatto prendere una piega negativa a tutte le borse a livello mondiale, soprattutto le borse europee. E di questo parleremo, parleremo però anche di vicende più italiane nel corso del programma oggi, perché c'è un po' di, non dico polemica, ma insomma, da un lato torneremo sulla vicenda britannica, perché ci sono nuovi elementi. Io l'ho detto con massimo rispetto, perché la Gran Bretagna è un paese in cui ho vissuto, Londra nello specifico, da sempre ci ha abituato, oltre che al pragmatismo, alla freddezza, all'efficienza, anche alla tolleranza, questa grande capacità di includere culture diverse senza avere i problemi, per dire a tutto, che ha avuto la Francia nel suo passato. E quindi grande capacità di pragmatismo anche in questo. Sta compiendo un passo falso, sto per dire un'altra cosa, al giorno quasi, perché dopo le polemiche sulla preferenza da dare ai lavoratori britannici, subito marcia indietro, le polemiche sugli accademici che nel caso soprattutto della London School of Economics, se stranieri, non avrebbero dovuto dare consigli su come gestire la Brexit, subito marcia indietro. La figura di Palta sugli italiani, quelli italiani, quelli con un accento più napoletano e quello con l'accento più siciliano, una roba che non si può sentire né in cielo né in terra. E adesso poi le dichiarazioni un po' così singolari dell'ex banchiere centrale della Banca Centrale d'Inghilterra, Lord King, che ha detto: ma no, ma la sterlina debole ci può aiutare, dimenticando che il suo paese esporta molto poco, importa tantissimo e ha un motivo competitivo non certo nel prezzo della sterlina, nel rapporto di cambio della sterlina sulle sue merci, ma in altri elementi. Ebbene, e le varie dichiarazioni di vari gruppi, la banca russa ma anche il colosso Nissan, oggi arriva un'altra tegola, perché cosa succede? Succede che Unilever, colosso mondiale, diciamo, nella produzione di tantissime cose, tra cui beverage, food and beverage, ha chiesto di rialzare i prezzi dei propri prodotti dopo il calo pesante della sterlina del 10% dopo la Brexit. Allora, la richiesta di Unilever è di aumentare i prezzi dei suoi prodotti di un 10% in seguito al forte indebolimento della sterlina dalla Brexit in poi. Ricordo che la sterlina è ai minimi da oltre 30 anni sul dollaro e da 10 anni almeno sull'euro. Ebbene, Tesco, che è la prima catena di supermercati in Gran Bretagna, ha annunciato questa mattina che non venderà più i prodotti di Unilever per questa richiesta definita inaccettabile. Prodotti che vanno dal sapone all'olio Bertolli, faccio notare che anche l'olio Bertolli appartiene al colosso Unilever, al sapone Dove, ai gelati, ai detersivi, resteranno quelli già disponibili, ma non saranno sostituiti. A chi mi chiede subito se non sto facendo terrorismo, sto dando le notizie. A me non me frega nulla che vada bene o male la Gran Bretagna. Ho sempre ritenuto che fosse un errore clamoroso per i britannici stessi l'uscita dall'Europa, da cui avevano sempre ottenuto più vantaggi, che ne dicano alla retorica piena di dati falsi, più vantaggi che svantaggi a livello di contributi versati all'Europa e quello che era riuscito a ottenere la Thatcher con la clausola, diciamo, di partner speciale. Adesso hanno voluto uscire dall'Unione Europea, non capendo, a mio avviso, che la Gran Bretagna aveva un vantaggio nell'assorbire proprio la libera circolazione non tanto solo delle merci ma delle menti nell'area europea. Vediamo cosa succederà. Mi sembra già assurdo, oltre a tutti questi passi falsi, queste figure un po' così, vedere anche uno scontro tra Tesco e Unilever. Ho capito, tu puoi levare i prodotti. Faccio notare che l'euro ha guadagnato il 16% sulla sterlina dal 23 giugno ed è chiaramente questo il motivo per cui Unilever voleva portare in aumento del 10% i suoi prodotti. Ancora il Financial Times conduce oggi un'indagine, lo fa il Financial Times, non lo faccio io, a chi mi scrive: hanno fatto bene a uscire dall'euro, mi permetto di ricordare modestamente che hanno fatto bene si scrive con l'H, poi la valutazione può farla come vuole, visto che ci sono già quelli che sanno già tutto sul futuro. Il Financial Times dice che potrà costare la Brexit fino a 20 miliardi come costo per il divorzio da Bruxelles. Ripeto, la stima è del Financial Times e va a guardare la parte della cosiddetta hard Brexit, e cioè la parte più dura dell'uscita dalla Gran se non vi fossero accordi abbastanza accomodanti tra Gran Bretagna e il resto dell'Unione Europea o l'Unione Europea tout court. Di questo parleremo. E poi una vicenda italiana, mi riferisco alla polemica innescata oggi da Federalberghi, che per Confcommercio rappresenta gli alberghi, appunto gli albergatori aderenti a Confcommercio in Italia. Il presidente Bernabò Bocca ha detto, ha criticato il portale Airbnb perché ad agosto 2016 l'accusa è di dilagare in maniera incontrollata. Poneva in vendita in Italia 222.796 strutture, erano solo 234 nel 2009, una crescita esponenziale alla quale non fa seguito una significativa variazione del numero di attività ufficialmente autorizzate. Quelle censite dall'Istat erano nel 2015 121.000, il picco si ha a Roma con 23.890 alloggi, a Milano con 13.000 alloggi. Allora, ne parleremo. Se il tema è chiedere, come nel caso di Uber, come in altri casi, che vengano sottoposte a stesse regole anche chi vuole mettere in vendita, affittare, scusatemi, non in vendita, il suo alloggio, parte del suo alloggio, come funziona tipicamente con Airbnb, la richiesta è corretta. Non vorrei, ma ne parleremo dopo, che sotto questa richiesta non vi fosse il tentativo o il fastidio per un fenomeno di successo su cui invito, ma lo faremo a breve, gli albergatori stessi a interrogarsi, un po' come ci interrogammo con i tassisti nella vicenda Uber. Uber deve rispettare la legge e così lo deve fare anche Airbnb. Da qui poi a dire che è solo sbagliata, chiedetevi se è normale, così non me la prendo con i milanesi, me la prendo con i tassisti romani, cosa che mi è successa 4 giorni fa, aspettare 45 minuti un taxi a Roma perché piove. In zona centrale, perché piove, non perché c'è, avete l'invasione delle cavallette, piove e i taxi si aspettano 40-45 minuti. Non vorrei che anche nella vicenda degli albergatori il modo di attaccare Airbnb nascondesse in realtà la voglia di non avere chi ti fa concorrenza anche su alcune tue inefficienze, vuoi per i servizi offerti, vuoi per i prezzi offerti, vuoi per il rapporto tra prezzo e servizio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, fa discutere un po', insomma, il titolo dato anche al rapporto UBS e PricewaterhouseCoopers sulla ricchezza dei super ricchi, si chiama Billionaires Report. Immagino che molti di voi non saranno interessati e sicuramente non vi rientreranno, però fanno notare la banca svizzera e la società di consulenza PricewaterhouseCoopers che dopo più di 20 anni di eccezionale creazione di ricchezza per i miliardari, l'età dell'oro dei miliardari è entrata in stallo. Ce ne faremo una ragione, visti anche tutti questi, diciamo, questo proliferare di, come si chiamano, i young rich kids, questi dementi che si fotografano. Dementi, si può dire che sei un demente quando fotografi il cellulare d'oro, lo champagne, sei un demente, dai, insomma, sei uno. Braccia rubate, ma non all'agricoltura che è una cosa seria, no, braccia rubate è qualcos'altro. Allora, braccia rubate basta, così. E anche le teste non scherzano. Comunque, la ricchezza complessiva dei super ricchi è scesa di 300 miliardi di dollari a 5.100 miliardi. In realtà il dato, al di là delle battute, è interessante perché noi da anni assistevamo a un aumento e anche divaricazione nella distribuzione del reddito e a un aumento della quota di super ricchi e del valore del patrimonio dei super ricchi. Invece da questo punto di vista è calata anche la loro di ricchezza, 300 miliardi di dollari in meno complessivamente nel 2015 a 5.100 miliardi, il che vuol dire che la media per miliardario è calata da 4 miliardi a 3 miliardi e 700 milioni. Lo so già che la battuta è facile, sono problemi, come farai ad arrivare a fine mese? Vabbè. I motivi però sono molteplici, dal trasferimento di asset all'interno del nucleo familiare alla deflazione dei prezzi delle commodities fino all'apprezzamento del dollaro americano. In particolare c'è il tema dell'eredità. Pensate che i 460 mega paperoni lasceranno 2.100 miliardi di dollari ai propri eredi nei prossimi 20 anni, che è praticamente come lasciare ai tuoi eredi tutto il PIL indiano. cioè di un'economia fatta di, se non ricordo male l'ultimo dato, 700 milioni di persone. E poi però ci sono differenze anche nella creazione di miliardari, perché hanno fatto questo sondaggio su 1400 miliardari nei 14 maggiori paesi. E insomma, ci sono differenze anche tra i miliardari. Per esempio l'Asia, grazie alla Cina, è riuscita a creare un miliardario quasi ogni tre giorni, quindi 100 miliardari all'anno, un po' di più di 100 miliardari all'anno. Mentre gli Stati Uniti, per la prima volta in 10 anni, la ricchezza media dei miliardari self-made, quelli che sono fatti da solo, ha superato quella dei miliardari che invece sono miliardari solo grazie ai genitori, grazie a papà e mamma, perché hanno ereditato il patrimonio. A chi fosse interessato, l'Europa ha visto crescere il numero di miliardari del 4%, ma calare del 3% la ricchezza. Negli Stati Uniti invece il numero di miliardari è rimasto uguale, la ricchezza è calata del 6%. Nell'APAC, quindi Asia e Pacifico, numero di miliardari più 7%, valore della ricchezza meno 6%. Oh mamma mia, che è successo a un ascoltatore che dice che non ho il cervello connesso con la bocca? Per cosa? Specifichi per cosa? Per i taxi, per i miliardari, per la Brexit, per gli albergatori? Chiedo. Andiamo avanti, di Cina abbiamo già detto, e anche di quello che riguarda le tensioni in Gran Bretagna, di cui parleremo tra un attimo. Arriveremo anche a chi me lo chiede sulla parte bancaria italiana. Oggi faccio notare che l'agenzia di rating Moody's, attraverso il vicepresidente Carlo Gori, ha detto che un rischio di bail-in in Italia che coinvolga altri risparmiatori, pur non essendo da escludersi, sarebbe politicamente molto molto difficile da gestire. La buona notizia oggi invece riguarda l'asta, come sempre in questo periodo, l'asta del nostro debito. Abbiamo collocato BTP a 3 anni, sono tornati leggermente positivi, però hanno 8,5 miliardi. Il rendimento lordo è lo 0,03%, che vuol dire che come netto sei in negativo. Ho collocati 8,5 miliardi, dicevo, di tasso a 3 anni, a 7 anni e a 15 anni. Il triennale è appunto, rende lo 0,03% lordo, 7 anni rende lo 0,83% lordo, i 15 anni rialza l'1,77% dall'1,6% precedente. Sono tutti leggermente in rialzo. Ah, adesso l'ascoltatore che dice che non connetto il cervello con la bocca mi ha chiarito che si riferiva alla Brexit. Ma guardi che lei può pensare come vuole, intanto si trasferisca in Gran Bretagna se è così contento, ma stiamo raccontando i dati, cioè le figure fatte dalla Gran Bretagna in questi giorni sono agli atti. La stima di un costo fino a 20 miliardi è del Financial Times, se la prenda col Financial Times e gli spieghi che non capiscono nulla neanche loro. La polemica tra Unilever e Tesco, che leva i prodotti Unilever dai suoi scaffali, è un fatto. Poi lei può pensarla come vuole, che dovremmo tornare alla riera, uscire da tutto, va benissimo, ma non è che può dire che queste cose non esistono perché non le piacciono, eh? Vabbè, scatterà il 1 maggio, restiamo in Italia, 2017, nuovo meccanismo di anticipo pensionistico, il cosiddetto APE, che in caso di uscita volontaria garantirà una detrazione fiscale del 50% sulla componente di costo per interessi del prestito ponte bancario. Sappiamo già che la penalità in media sarà intorno al 4,6% verso il 5% per ogni anno di anticipo, tenendo conto che si potrà arrivare ad un massimo di 3 anni e 7 mesi. Domani vi sarà un altro incontro, forse definitivo a questo punto, tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, però su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, a firma del vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Rioli. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. In vista della nuova legge di bilancio e della prossima manovra, prende forma la struttura dei costi dell'anticipo pensionistico, l'ormai famosa APE, con cui si potrà andare in pensione con 3,7 anni di anticipo rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti oggi dalla legge per la pensione di vecchiaia. E questo tipo di strumento può interessare chi è nato tra il 51 e il 53 e abbia maturato almeno 20 anni di contributi. L'ultima novità è che la sperimentazione biennale partirà dal maggio del 2017 e comporterà una penalizzazione sull'assegno previsto del 4,6-4,7% per ogni anno di anticipo. È stato inserito anche un meccanismo di sconto sugli interessi in cifra fissa e pari al 50% per chi richieda volontariamente l'uscita anticipata dal lavoro. Lo stesso sconto, peraltro, resterà valido anche nel caso in cui sia l'azienda a garantire l'anticipo del finanziamento utile a coprire i costi degli assegni di pensione anticipata. Rimane ancora da capire come funzionerà la cosiddetta APE social, vale a dire quella forma di pensione garantita a chi non abbia versato sufficienti contributi e versi in situazioni economiche particolarmente proibitive. Parliamo dei disoccupati di lungo periodo, dei lavoratori con disabilità, ma anche delle persone con carichi familiari particolarmente gravosi. Va ricordato che l'APE è frutto di un anticipo garantito dalle banche ed erogato tramite INPS e, come tutti i prestiti, dovrà essere quindi rimborsato dai percettori in 20 anni dal momento in cui raggiunge l'età di pensione di vecchiaia, vale a dire i 66 anni e 7 mesi. Il governo ha messo in campo 6 miliardi in 3 anni per tutto il pacchetto pensioni, ma è chiaro che questo dell'APE social per la finanza pubblica è la partita più delicata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo verso la pausa e poi partiamo con il primo tema. Volete sapere della manovra? Allora, continua ad esserci l'ipotesi della voluntary disclosure e quant'altro. Addirittura sono circolate ipotesi di un Presidente della Repubblica molto scettico o perplesso sulla manovra, perché il deficit continua a salire. Oggi Bersani ha detto che la nuova voluntary sembra un'idea di Corona. Questa battuta ci sta tutta. La manovra è confermata, complessivamente dovrebbe valere circa 24 miliardi e mezzo di euro, però altre novità fino ad oggi non ne abbiamo avute. Andiamo allora su meteo, pubblicità e poi partiamo con la Brexit, con Massimo Gioia dell'ascoltatore. 349-238-6666 per sms e whatsapp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Nel frattempo la borsa ha già chiuso. Calo dell'1,40% per Milano con Banco Popolare meno 4,80, un po' in recupero i bancari. Ci sentiamo dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. ...17.39 minuti... Allora, rapido commento di borsa, passiamo alla Gran Bretagna. Come dicevo, oggi c'è una depressione su tutti i titoli legati al mondo delle popolari. Alla fine della chiusura, Banco Popolare meno 4,70, Pop Milano meno 4,60, Unipol Sai meno 4,40, come la Pop Emilia Romagna meno 4, Unipol meno 4, anche Banca Mediolanum meno 3,70, sia Ubibanca che Unicredit. Fiat poi perde il 3,40, Mediobanca il 3,30, Generali 2,80, mi fermo con Case New Holland Industrial CNH meno 2,70. La cessione del 20% a investitori istituzionali da parte di Unicredit, il titolo Fineco Bank, fa salire il titolo del 5,60%, ceduto a 4,55 per azione, adesso ne quota ha chiuso a 5 euro per azione. E poi Alerion, l'offerta di Edison porta il titolo l'OPA a un rialzo del 22%, c'è poi Novatec, siamo sui migliori e peggiori, più 13,70, e Italia Independent più 10,70 e Banca Generali più 5,60. Sfuma il rischio di un aumento di capitale dopo il collocamento del titolo Fineco. Il fronte opposto invece è rappresentato dal gruppo Waste Italia meno 13, Industria e Innovazione meno 9,40, Poligrafica San Faustino meno 5,20. Allora, la Brexit, una cosa, dunque mi scusi, ma lei non è che siccome ha vissuto 2 giorni a Londra, guardi, a parte che ho vissuto più di 3 anni, ma chi se ne frega di quello che ho fatto io? Uno può avere delle sue idee sulla Brexit e poi citare i fatti. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Gran Bretagna, da Londra, buonasera. Buonasera a voi. D'accordissimo invece con chi scrive, l'abbiamo sempre detto, Londra, pur rappresentando quasi un quarto del PIL britannico, non è la Gran Bretagna, non è l'Inghilterra soprattutto, perché poi c'è la Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord, ma non è l'Inghilterra. Ed è vero, abbiamo visto anche nel voto che tutto ciò che non era Londra aveva percentuali di sì alla Brexit molto molto più alte. Insomma, vorrei rifare un po' il punto con te, perché mi sembra che al di là del mitico che tu hai definito forse ubriaco ex governatore della Banca d'Inghilterra King, qua le tensioni si accumulino, al di là della cappellata del passo falso sugli italiani siciliani, italiani napoletani. Ma insomma, il Financial Times oggi cita un divorzio che può costare 20 miliardi e mi fa impressione lo scontro tra il numero uno della grande distribuzione in Gran Bretagna, Tesco, che è tra l'altro la terza catena di supermercati al mondo, che ha respinto la richiesta del colosso Unilever, che vende di tutto, dai detersivi ai saponi al cibo, che voleva aumentare i prezzi del listino del 10% come conseguenza del calo della sterlina. Leonardo. Sì. D'altra parte, se, come ha notato un analista, se lo shampoo costa il 20% in più, in qualche modo dovrà essere, come dire, ricadere anche sui consumatori, ritiene Unilever. Questa è la tesi di Unilever. Va detto che in tutto questo, naturalmente, Tesco cerca anche, come dire, di farsi paladino, e lo è già diventato nella stampa popolare, come dire, di una forma di economia autarchica, no? Ci difendiamo da queste dagli approfittatori, c'è, cioè, nebbia sulla manica, il continente isolato, esatto. C'è un po' questo tipo di atteggiamento, anche perché Tesco è sempre stato il campione, come dire, dei consumatori britannici di un certo tipo di, e cerca di riaffermarsi. Al netto di questa considerazione, ci sono una serie di vicende che vanno presa in considerazione. Okay, hai un cane pro Brexit, un bulldog Brexit. A questo punto, visto che è il simbolo britannico, diciamo, da sempre, il bulldog è il simbolo inglese. No, non è un bulldog, ma va bene. E dico, quindi c'è stato questo episodio, poi c'è stato quello che citavi giustamente e che riguardava i 20 miliardi di budget della spesa stimati dal Financial Times, diciamo. Esatto, è una stima che ha fatto il Financial Times ed è relativa soltanto ai costi del bilancio del bilancio, come dire, del contributo britannico negli anni al bilancio europeo. Perché se vogliamo calcolare davvero qual è il costo della Brexit, sono molto più di 20 miliardi, sono frazioni di PIL significative, è stato calcolato che in 15 anni potrebbe essere circa l'1,5% del PIL che viene, del 9% del PIL che viene a mancare rispetto alle stime di una Gran Bretagna invece parte dell'Unione Europea. Questo in un quadro che ulteriormente si complica, perché un'altra notizia di oggi è abbastanza significativa, la Scozia ha rilanciato le stanze indipendentiste. Certo. Oggi la leader scozzese ha annunciato che farà un nuovo referendum sull'indipendenza scozzese, perché su un punto particolare, dice, la Gran Bretagna, cioè l'Inghilterra, ha dato mandato di uscire dall'Unione Europea, ma non di uscire dal mercato interno. Non c'è l'autorità per una cosa del genere, e questa invece sembra essere proprio la direzione che Theresa May intende adottare. Insomma, già lo dicemmo durante il referendum, che la Scozia avrebbe preso un'altra linea. Qui rischiamo una cosa paradossale, cioè un'Inghilterra fuori dall'Unione Europea, e per cui uno potrebbe arrivare a Londra, essere giustamente trattato come, qualunque altro cittadino non britannico, e poi va in Scozia e magari hai una Scozia che si diventa indipendente, si riallaccia all'Unione Europea. Ma al di là di questo, io lo dico anche a chi sta scrivendo, guardate che uno può essere a favore totalmente della Brexit, basta che sa, e anche dei costi che questo comporterà. Non è che i soldi siano tutto nella vita. Se come ideale tu ritieni che l'Europa facesse schifo, non ci fosse nessun motivo per restare dentro l'Unione Europea e quant'altro, anche se ti costa 9 punti di PIL nei prossimi anni, 20 miliardi subito di costi veri, puoi essere convinto di questo. Non è che i soldi facciano tutto, basta saperlo, basta non raccontarsi ste palle per cui la Gran Bretagna avrà solo vantaggi economici dalla Brexit, e questo lo dico anche a chi sta scrivendo. Leonardo, adesso poi vedremo i prossimi passi, mi sembra però che di passo in passo, allora qualcuno mi fa la battuta che anche se lo shampoo aumenta di prezzo non è un grosso problema per gli inglesi, vabbè, la prendo così, visto lo stereotipo sugli inglesi e visto lo stereotipo sui siciliani e napoletani che loro hanno applicato nei moduli. Ma insomma, i tempi, l'ultima domanda che ho per lei, che ho per te Leonardo, ma i tempi un po' più chiari, perché non vorrei che continuassimo a raccogliere una ridda di informazioni, di stime così, senza un dato certo. E questo è il problema, c'è un'assoluta mancanza di chiarezza e non c'è neanche, come dire, la prospettiva di una chiarezza che venga a definirsi. Si sa che a fine marzo, questa è l'unica certezza, a fine marzo l'articolo 50 verrà avviato, l'articolo 50 è quello che avvia il processo di recesso britannico e quindi 2 anni di trattativa. Su che basi questa trattativa sarà fatta? Ormai il dibattito è hard Brexit o soft Brexit, cioè un Brexit con la Gran Bretagna nel single market o con la Gran Bretagna fuori dal mercato interno. Questo è il punto ormai chiave, no? Certo. E neanche di questo si ha la più pallida idea. E questo crea una situazione di incertezza nel mondo delle imprese e soprattutto dei servizi finanziari che non ha precedenti. Hai ragione a chi mi dice ma adesso sono tutti brutti e cattivi gli inglesi, no, è che no. Ha ragione anche chi dice non è che si possono criticare sempre solo i tedeschi, critichiamo gli italiani, critichiamo i tedeschi, critichiamo, e si possono anche avere delle valutazioni su, ripeto, non sul sì o no, ma sui passi falsi clamorosi, immaginate se li avessimo fatti noi, dagli universitari al posto per i lavoratori britannici, appunto alle cavolate scritte, alla polemica anche su cosa fare con i prezzi dei beni, visto che, come abbiamo sempre spiegato, essendo un importatore netto, la Gran Bretagna ha solo svantaggi dalla svalutazione della sterlina. Grazie Leonardo Maisano, in collegamento da Londra, traffico. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, dalla Brexit alla polemica innescata oggi, tutta italiana devo dire per ora, dal presidente di Federalberghi proprio sul tema invece degli Airbnb. Cosa sono? Sono la possibilità di mettere online la camera o la stanza o anche l'appartamento, è un settore concorrenziale a quello più strutturato e classico degli alberghi. Siccome abbiamo uno speciale su Dario Fo e Bob Dylan dalle 18 in poi, oggi inizio un ragionamento con Bernabò Bocca, a cui chiedo, intanto lo saluto, buonasera Presidente. Buonasera a tutti voi. Qui chiedo di risentirci domani, perché il tema mi interessa molto anche per il settore che rappresentano gli alberghi in Italia, ma anche per le polemiche. Allora, voi avete detto sostanzialmente, attenzione, c'è qualcosa che non torna, perché la crescita dei Airbnb è talmente esponenziale da non risultare quasi controllata, da sostanzialmente un numero di strutture che erano 234 nel 2009, siamo arrivati adesso a 222.786 e le strutture censite dall'Istat sono 121.000. Domanda, ma non è che dietro questa polemica vogliate così mettere il freno a chi vi fa concorrenza e anche concorrenza dura? No, assolutamente no, questa è una premessa che io vorrei fare, questa non è una battaglia degli albergatori italiani contro il resto del mondo. questa è una battaglia degli onesti contro i disonesti, è una battaglia di chi paga le tasse contro chi non paga le tasse. Le faccio un esempio, io adesso sto partecipando a un convegno a Rimini, dove è emerso che nel comune di Rimini sono 107 le unità extra alberghiere censite all'Istat e sono 1240 le attività extra alberghiere presenti su Airbnb nella città di Rimini. Cioè stiamo arrivando a un livello per cui a noi la concorrenza, per carità, ben venga, se questa forma di mercato è gradita, noi siamo felici. L'importante è stesso mercato, stesse regole. Non possiamo continuare ad avere una concorrenza sleale da chi non paga le tasse. Ecco, ma perché parlate di concorrenza sleale? Nel senso che vi risulta che la maggior parte di queste strutture, perché su questo siamo tutti d'accordo, facevo l'esempio prima dei tassisti con Uber, se c'è qualcuno che va a violare le leggi va sanzionato e basta. Poi la concorrenza invece la vediamo con favore. Lei ritiene che la discrasia tra dati ufficiali e strutture offerte faccia... È tutto nero, ma tanto è vero che a fianco di noi c'è anche l'associazione dei bed and breakfast, perché i bed and breakfast regolari sono una cosa e poi ci sono i bed and breakfast abusivi. Allora l'affitto delle locazioni, delle locazioni brevi, che dovrebbe essere soggetto a contratto, viceversa esula dal contratto, dal pagamento delle tasse, dalla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza degli alloggiati, che mi sembra che sia un problema che in Italia è abbastanza sentito, visto che viviamo nel mondo in un'emergenza terrorismo, e per cui è oltretutto al pagamento della tassa di soggiorno. Allora assistiamo a una situazione paradossale nel nostro paese, che chi è in regola continua a essere tartassato e chi non è in regola viene lasciato tranquillamente operare, così non può andare bene. Allora Bocca, resti con noi in senso di augurio anche domani, perché adesso devo chiudere la linea GR24. Voglio tornare sul tema perché mi interessa invece come sta rispondendo il settore classico dell'hotellerie, degli alberghi italiani alla sfida, quando la sfida è però trasparente ed è corretta, di Airbnb e prenotazioni online. Un tema che ci interessa molto, però vorrei affrontarlo con lei domani. Grazie per ora anche al presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. È veramente tutto. A chi mi chiede delucidazioni, non ho mai detto che che Banca Generali abbia partecipato all'aumento di capitale, ho detto esattamente il contrario, ed è il motivo per cui cresce in borsa. Noi ci risentiamo domani. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.